prepara la macchina e carichiamo l'impianto e fermo un casino a casa tua. Domani io non posso spostarmi. Già lo so, luci ninnisciani. Hai sa gente, raga. Insomma, roba da matti. Che ci devi fare? Cazzo, pazienza. Ma cosa ne farei, pizza? Ne faremo tutti, vediamo una cottura e dopo a dormire. Tra goccia di rugane. Tanto così poi c'ho il letto con le rotelle. Allora tu con le rotelle vai. Ebbene, se ti blagge giù il voto, sì. No, non nato di... Sì, mi ubriaco, però sempre lucido, maledizione. Se no, no, non anda bene, dai. Ehi, domani, tanto... ci beviamo un goccettino di spumata, a mezzanotte, a buon anno, mette go. Caffa. Le bottiglie. Come? Vogliono le bottiglie, non la bottiglia. La bottiglia non anda bene, no. Le bottiglie, tipo io sono quella giù, la di me si aggiù di lì. Ah, bella cosa, pure tu. Quindi da solo, cosa tipo me, una, due bottiglie, sai? No, ma poi a me lo spumante non mi piace assai, quindi... lo bevo giusto per festeggiare mezzanotte e basta, un goccettino, e buh. Cappa, si fermo mettere una fatta a nadare, non che fermo guerra. E poi cosa ho osservato a nadare? A nadare, tutti gli ci della zona. Non è che da un coprifuoco, vera fuoco in occhi. Davvero? Tutti i parenti erano. E io anch'io già ce l'ho due cartucce da sparare. Cappa. E dopo quando li fino, tro dietro da Ruacconi. E la voce ce lo piago di fame. Andavo e... ehi, catta, a nadare. Tutta la città, un casino, fuochi d'artificio, i barattoli, i bombettoni, di tutto vera. Ti rendi da rubacconi. E quello che non si poteva sparare. No, soprattutto di vero sindaco mio, un dittatietto. In chi vi proprio per una levata porca, per una sparatoria in corso. Gesù che, vabbè. Vai, ci tieni da coro, vai, che è festa per tutti. Lo so che è festa per tutti, però giustamente ci vuole un po' di attenzione, ho capito. Allora che cosa fai? Pum pum, papà e basta, cosa fai? Cioè, e zii, cani, gli animali, un cane ti entra sotto l'orecchio, ora iatta, e si cua, cosa si dissente? Ma fini, dati di balle. A me io non nasce, io vado a scimmia, ho detto. E per la iatta, me. Non sai cosa facevano i nostri? Entravano sotto l'orecchio con lo ciaffalla e buono, dopo non fa, dopo i sciani tranquilli. Cosa? Una volta ti esci da quella che ci avevamo bella, Cerece, ti esci da sgommenti. Ero mezzo imbriaco. Po! Credo che si è tagliata. E tu vuoi un rotoreggia, però poi la pipina gli è passata di uscita. Quando è finito tutto, io ridevo, cazzo, non fatti a ridire, canterò. Vabbè, giustamente anche loro si spaventano. Non sai quanti cani scappano, gatti e roba del genere per questi... petardi e cose così. Lo so, già ribassa l'animale, già non è fesso. Dopo già ribassa, e va ne paura in un momento, dopo già ribassa, cosa? Ah, ma qui tenere lo zocco del padrone. Gatta brioscia, già c'è nato, hai tu. Eia, già cenato. Positivo, io adesso altri 10 minuti e poi me ne scendo giù e vado a cenare anche io. Cappa! Ma andai su cazzo apparecchio, sì. Sì, che già va. Sì che sta andando, io voglia. E dopo dopo, E cosa avrà? Manco 2-3 mesi di vita. Mi danno il regalato in scatola e... cioè... mi hanno regalato in scatola. Non mai è stato messo alla... l'ho messo solo io in tensione. Non è stato mai messo da nessuno. E quindi Nuovo. Un apparecchio nuovo. E quello basta... anche uno a farle salire appena appena il picchio. Ma che lo posso dare a farle alzare un picchio? Siamo solo qualche che lo puoi dare. Posso pensare a giudizio che non andenti, no? Vabbè, ma almeno c'hai... Se così c'hai fermate, magari lo lasci conservate, però magari il picchio di modulazione si può aumentare un po', capito? La LC, mi... Non ne so, io non ne tocco apparecchi. Va giù che c'è un compressore degli yo-yo, ma... Esci a vedere. Papà è da Massimiliano. Quindi così, ha aumentato la modulazione? Un pochettino, non più di tanto, però. Cappa, ma cosa si intende di bruci e fiamme? Prova. Casino fate. A casino fa la fischia. Cazzo, pare che mangia un coso, pare. Pare che vi sia un UFO. E basta la bocca nero, che sono un coso, e lo lasci normale. Non ci ho mai capito niente, qua. Dice companda, non companda già nulla. Quello lo apre appena appena di LC e basta quella radio, lo lascio così. Cappa, ma non ne so cosa deve... Cioè, ma c'è scritto proprio LC? Non lo so io, ormai quello lì dentro, boh. Cos'è? SMD quello lì. Se ne so cazzare se SMD o culettini, cosa ne so io? Ti mando un messaggio con WhatsApp, aspetta. Sì, yeah. Guarda che ti ho mandato un messaggio con la moto zappa. WhatsApp a tutta, Massimiliano. Aspetta, ti sta trovando. Max, letto là. Oh, Massimiliano, se ci sei, io chiudo un attimo e vado a fare roba a casa. Dai, ce la risentiamo, ok? Ehi, ciao a tu, dai, anche io scendo giù a mangiare la pappa, là. Ci sentiamo, ciao ciao. Ehi, dai, che ti vado a fare un po' di roba, se no non mi capo bene. Ciao ciao, ci sentiamo. Buonasera. Io sono. Ah, ciao Anto. E ciao Pompo Emi. Un po' che ti incasinato gioco. E quindi sto facendo roba. Ti ho sentito e ti ho salutato. Hai fatto bene, mi. Io sto usando il colescotto via, sto usando adesso, in questo momento. Con fortuna di 2009, figurati tu. Staffa, Gianni Bomba, ya. Aspetta che faccio stile, ecco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adesso è staccato. Sta va bene, Gianni. Aia, a voglia. Io mi stavo a scrivere nel 2009, la verità, perché è molto è più bella lei con le 4000 che quella che c'ha blu, solo originale, la verità. Già va bene. Staffa, Ali, ti devo lasciare perché sono in alto mare, sto facendo un bel po' di roba. E non so, magari se ci sentiamo dopo, ok? Vabbè, già sono all'ascolto, va, che altro. Nel caso non ci sentiamo, boh, vabbè. Ci stiamo domani mattina o domani sera, come vuoi tu. Tanto domani sera lavori fino alle 6, no? Non di più. E poi torni a casa. Staffa. E so che ci vuoi uscire molto presto e Sara non fa tanto bene. Adesso devo scendere giù a pulire un po' i piatti. A farmi i piatti e via. Capito? E poi... poi dopo fatto tutto quello ci sentiamo, ok? Va bene, non c'è problema, fai quello che devi fare, non ti preoccupare. È quello. Quindi se non ci sentiamo stasera, domani sera, domani sera, quello non ti preoccupare. Di cui già ce li facciamo. O barattino solo al telefono, quello non è problema. Facciamo bordello domani. E per un casino vemmo, da. Io fra un'oretta, forse entrerò fra un'oretta, intanto di fare quello che devo fare, una mezz'ora, dai. Intanto di fare quello che devo fare e poi entro. E vabbè, sono ascoltato, sto mangiando io, quindi, in questo momento. Sto cenando, quindi. Io ci passerò un'oretta. Cioè, solo quando ascolto su 10, chiama qua, là, non c'è problema, già ti rispondo. Ok, Antonio, non c'è problema. Ok, sempre 9:20. 25 sono, sì. Prova. Hola. Attento Antonello. 9.25 sei sempre qua. Vabbè, dai. Allora facciamo scaldare un po' la Ringo. Che sei a posto, non ti preoccupare. Minchia Antone, questo vecchio modello che mi ha toppato, non mi ha dato mai un problema quando ce l'ho. Sono contentissimo. Meglio così, è la ora. Ma tu poi l'antenna le ha staccate tutte, no? Non deve più entrare, oppure l'antenna ce l'ha, ma pure il barattino ce l'ha piazzato e non vuole ascoltare, cosa è quella? No, non lo so, ci avrà qualche baracchino, qualche portatile, ma no, ma lui non. Siccome l'antenna a tetto ce l'avevamo sempre, quindi c'era l'altra Ringo, lui me l'ha data. Quella con le VTM, non è quella con quei tubi a stringere le faccette. Però questa, secondo me, è migliore. L'altro giorno ha fatto un vento allucinante e non gli ha fatto nulla. Gli è andata bene. A me mi ha girato anche dalla TV, adesso lo vogliate, devo salire sopra e sistemarla bene, montarla come si deve. Mia madre non ha pegato l'antenna del baracchino perché c'aveva i tiranti, se non avevo avuto tiranti l'avrei trovata in terra. Questo è poco, ma siccome mi sembra una parabola, perché ha fatto un sacco di danno questo vento, la verità, Non mi aspettavo un vento del genere. Mi ha sopportato il vento questa antenna da quando l'ho installata qua, ma mai così ti chiude a essere cagato sotto quando fa vento che ti butta tutto quanto in terra, hai capito? Si vedeva, si piegava con le stracce, con quel cose di vento forti che dava, però non l'ha fatto nulla, già va bene. Ah, la verità non ha fatto niente, cioè quasi niente. Tanto il televisore l'ha girata, quindi se l'ha girata un tipo ci sarà, no. È altamente forte il vento, che in pratica l'ha piegata da un'altra parte, hai capito? Perché l'antenna era stretta, è stata bene, scusa con me. Tu figurati che io quello fosse stata mollata, l'avrei girata per dire, con un pezzo di canna da pesca. Invece, cazzo, è bloccata, hai capito? Quindi è la forza del vento che l'ha piegata. Il discorso è quello di adesso, bisogna che la drizzo, la stringo di più e va fanculo. A un certo punto almeno non si molla più e non gira più, al limite si sfascerà il palo, quello che è, perché con l'antenna che ci ho messo è una cadere tremente, il discorso è quello. Pesa 2,5 kg, pesa, non è che sia un'antenna leggera, pesa 2,5 kg. Questa con l'antenna leggera non sarebbe manco girata. Quel tipo di antenna è fatta così, sono antenne che sono pesanti e ricevono bene. Purtroppo si gira perché sono, vabbè, il coso c'è di bello nel caso si dovesse girare, riceve lo stesso, di riflesso, ma riceve lo stesso. Kappa. Dai Antone, io vado, se no non mi capo bene, dai, al limite ci sentiamo dopo, mangia con calma tu, lo so che fanno quelle, girano le scatole così, lo so. Ok, ciao, dai, ci sentiamo dopo. E vabbè, io sono qua all'ascolto, dopo, dai. E se no domani, non ti preoccupare. Ok. Ia, ciao. Allo, chi è? Ciucacciù. Avanti, chi è? Quel porco fottuto, chi è? Toglioso. Ah? Cos'è detto, toglioso? Ciucacciù. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. sto? Come sto? Come sto? Vabbè, già mangiato, E a voglia, poco fa. Sono andato a fare una spesa, mi sono comprato il trapano, quello da salatore, da Lidl, meglio di quel trapano dello spingere, la verità, perché quando bucavo i frattini ci vuole mezz'ora. Ah, così è. E allora, 34 euro, va a far culo, mi sono comprato quello. Più due cuscini, 9,90 euro, di quelli della cervicale. E sono andato bene. Ascolta, quanto li hai pagati i cuscini per la cervicale? 9,90 euro. Ah, e funziona, no? Cioè, li hai provati o no? Ancora no, sono dentro le cose, il sigillo, figurati tu, non ancora provate. Ah, va bene, va bene. Stanotte, e poi poi ti dico se vanno bene. Però sono arrivati stasera, quindi se... Siccome c'è problemi di cervicale io, e tu lo sai, se devo bene con quei cuscini, immediatamente te lo dico, vai te li prendi la mattina. Sì, non dire a me, sono morto io. Poi tra l'altro oggi addirittura cosa mi fa male? La caviglia. Ho già messo il volta del Mugel, mi ho preso una bustina. Cioè allucinante, ogni giorno ne ho una, non c'è niente da fare. Devi non dirlo a me, guarda, non dirlo veramente a me. Io sapevo che avevo i dolori, la verità. Pieno, cervicale, la mattina quando mi sveglio cazzo, mi sento tutto strano a casa. La mattina mi ha telefonato Giovanna e tutto il coglione che mi sono svegliato. Ah, mettimi a posto, guarda, ce l'hai voluto un bene. Figurati tu. Quindi soffro di cervicale parecchio io. Se metto due cuscini vanno un po' bene, se ne metto solamente uno incomincio a sentirmi tutto, mi gira la testa e cose del genere. Il discorso è quello lì, ma arrivato a questi livelli, a questa parte, cazzo, prima per dire cazzo scivo tranquillamente in moto, in giubbotto, in maglietta, non mi sento sentire bagnare, non faccio niente, di tutto pigliavo, di tutto, di più. Adesso cazzo, mi ha massacrato, ma. Da quando non esco più di casa che ho la stufa e cose del genere, molto tanto bello, tutto dolore, soccato, tutto cervicale, di tutto, guarda, di tutto, di più ciò. Artrosi, l'artrite alle mani, ciò per la questione del coso, già lo sai anche tu. E quindi quando vado a stringere qualche cosa mi vengono i crampi, eccetera, eccetera. Quindi sono messo male, ma sono vecchio. Sono a buttare, sono veramente a buttare qua. A lavorare proprio non ci penso nemmeno, a far culo, ormai lascio lavorare i giovani e se la toccano in culo. Lo so, casino, non lo dire a me, abbiamo la stessa età, quindi io sono diventato un montone di garraggio, e prima i piedi, e le ginocchia, e c'ho l'artrite, e c'ho la schiena, un casino. La schiena ce l'ho anch'io, sempre questo, eh. Io c'ho di tutto e più, quindi figurati tu, ma te la accorgi adesso, me, no, 15 anni fa, c'avevo 40 anni, figurati, no, non sentivo un cazzo, ti salivo soprattutto tranquilla, adesso, quando salgo soprattutto ci penso due volte, avete assicurato, perché non è possibile, senti i crampi, mi, sai, ti vengono i crampi delle gambe, ti vengono dei muscoli, cazzo. Poi vabbè, con lo cudano in pratica si peggiora, perché non si è in movimento, eccetera, eccetera, una persona indigatolanda, sa pompetta. Se un mese fermo e più, come sale dalla scatola, ti ingrippi, cazzo. Lo so, quanti anni hai attore? 60? Quasi 60 ne ho, 58 per esattezza. 58? Vabbè, io ne ho 3 in più. siete 62, quante mia moglie sì. Vabbè, io sono 59. È un casino, io prima non avevo mai dolori, ma lavorando non me ne accorgevo praticamente, perché forse ero sempre a caldo, capito? Ma la mattina mi alzo, gioco, punto nel garage, ci vuole un'ora prima di riprendermi. Adesso oggi sto toccando al piede sinistro, mi fa male tutta la caviglia, il ginocchio, non ho giubilato un gol, niente, nulla. Vabbè, sarà, cosa vuoi ti dica? Cosa vuoi che ti dica? Va bene così, KK. E beh, sta andando bene questo microfono con l'Inuit 23 canali, va bene. E a voglia va bene. Che ci sono invece le... il cornel scotto mira con microfono alla tavola, io lo sai cosa letta, è perfetta, è una bajuela fritta, è perfetta, funziona benissimo come apparato, è molto il, come si chiama, la stessa identica cosa della 87, la verità, come attestificazione, andate in meno, ma non me ne frega niente, non funziona veramente bene, e me la parecchio, io ho messo la mascherina del superstato 2009 ed è perfetto, guarda. Io ho questi in base, sono uno più bello dell'altro, verità. Adesso mi domani mi ha mandato Gianni Capri lo schema del Pony, che lui ce l'ha, con dove devo aprire l'LC, apro l'LC, c'ho il microfono da tavola anche lì. Questo è l'MBP4, non l'MBP5, originale, comprato ieri da Fusaro. Non chiedo più un cazzo a nessuno, tanto sono tutti modificati, questi microfoni, tutti Ducati. Questo è originale, 60 euro, l'ho comprato nuovo, e domani vado e mi prendo, c'è un altro MBP5 nuovo, mi compro un altro MBP5 e tolgo l'altro, lo stesso, che sta sempre ogni tanto innesca, fischia, non li compro più usati, mi compro nuovo il microfono e se la biglia è tutto. Tanto te li vendono usati, che sta 40, 50 euro, 60 euro, 70 euro, ma te ne ho, non compare il genuovo. E almeno so che è nuovo, capito? Cazzo, sembra che stai chiedendo chissà che cosa, cazzo, buh. Io voglio roba nuova che funzioni, no, roba da mettere lì in vetrina, mettere in vetrina non me ne faccio niente. Io ho 7 basi e sono tutte 7 funzionanti, uno meglio dell'altro, con 1, 2, 3, 4, 5, 6, uno ne manca di MB+4 più 5. Tutti con i microfoni da tavolo, tutti. E domani me ne comparete un altro, c'è la biglia in culo. No, io ne ho comprato 4 di MB4 la verità. C'è tutti e 4 li ho venduti. Nuovi, la verità nuovi, eh. Quindi figurati tu. A un certo punto. Ma no, per il momento non ho sbattuto nulla di mettere il microfono a tavolo, la verità. Forse verrà adesso dopo gennaio, ovviamente me lo prenderò, non lo so. La Fusaro, me lo ordino il 5 mi voglio ordinare. Mi piace il 5 perché altro, no? Poi, ha giovinito, c'ho tutto. E non per stare a comprare apparati, cosa cazzo di comprare a fare? Non me ne sbatte niente. L'unica cosa, guarda, che volevo prendere quel Saturneco, 100 euro che stavano vendendo, una volta di punti. E mentre ho fatto Stefano, ci dovevano prendere, dice, perché hanno trattato 10 persone, ci hanno messo le mani in mezzo, dice, lascia prendere, dice, lascia prendere, dice, non ne vale la pena, mi ha detto, va bene, mi ha detto, Stefano, non lo prendo per niente, boh. Infatti ho lasciato perdere più che altro. Insomma l'avrei preso e me l'avrei riparato, per dire, a un certo punto, con il Saturneco. Invece ci hanno messo le mani in 5 persone, quindi a un certo punto il cavallo, no? Già non sai come fanno, quando vedono una cosa già a poco prezzo, saltano subito e ci battono le mani in mezzo e cose del genere. qui ho lasciato aperta. Boh. Insomma, avevi preso, l'avevi sistemato e sempre stato. La verità è un bel apparecchio da avere in casa, ma come è capitato, come l'affare che mi hai fatto fare tu, la verità. A un certo punto, se è difettoso, cosa faccio? Li metto scemo io, ci rimetto i tuoi soldi perché l'hanno toccato gli altri, no? Non avete risposto, vaffanculo. Antonè, anche a me me l'hanno detto, lo stavo prendendo anche io. E poi mi hanno detto non lo prendere perché è tutto toccato, tutto capito. Vabbè, io quello là te l'ho fatto prendere, poi tu non mi hai consultato, ma se no me l'avrei preso io. È andata quella persona là, va bene lo stesso, sono contento, non è un problema. Capito? No, io non ne prendo più. Io roba che non funziona, non ne voglio. Io voglio roba che funzioni, capito? Se funziona te la pago a prezzo pieno, se non funziona me la dai non funzionante. Quindi io so perfettamente i prezzi, non ci speculo e non voglio guadagnare niente da nessuno, però non mi posso io prendere una radio che non funziona e non so neanche quanto ci vuole a ripararla. Allora io te la pago per quello non funzionante che è il suo valore. Poi se io ci metto altri 100 euro, altri 200 euro per metterla a posto, quindi sono cazzi miei. Però io se te la pago non funzionante, capito? Non mi di niente che convinta di fare affari, affari non è vostro io. Io compro roba funzionante, se funziona va bene, se non funziona, se me la dai non funzionante te la compro, te la metto lì, poi decido io cosa fare, se farla riparare o meno. E se no te la dai, cosa me la fa? E gli stessi microfoni, ho preso due, uno di Gibi, l'altro di Vogitato, modificati, fatti, toccati, punti, ponticelli, tutti fischiano, tutti fanno, nuovi, non ho neanche uno graffiato, nuovi sono, però sono toccati, adesso da oggi in poi me li compro nuovi, domani mi ho preso il più 4 che è questo. Capo ce la dicono metallico qui e là, ma è già metallico, funzionano benissimo e lo lascio così. Domani mi prendo l'MB più 5 e ti bogurato, quello che ho comprato, metto dentro l'armadio, vai, funziona però non mi uso, me lo compro nuovo. Guido pericolo a capo. Cosa Antonio? Ho detto Guido che vantane da domaro pericolo a capo. Che non si toccano i microfoni, che cambia la capsula, che cambia quello, che... Ma se un microfono è stato progettato in questa maniera, questo è nuovo, comprato ieri da Fusaro. Penso che stia uscendo benissimo, perché io mi sono ascoltato. Originale, MB più 4, ok? Originale. Domani vado e mi prendo l'MB più 5, così non ne ha più, li deve ordinare. Domani mattina vado, cazzo, 60 euro, va giro un microfono nuovo, via vai. Quello là non si può aggiustare? Sì, Anton, non c'è niente, però hanno cambiato la capsula, l'hanno messo una capsula che non è la sua, poi hanno fatto il ponte per spingere di più. Chiaramente queste radio hanno la loro età e vogliono un microfono normale, un microfono che non sia troppo spinto, se no va a fare casino, capito? Guarda, ce l'ho a metà io l'MB più 4, a metà. La senti la radio? Nuovo, nuovo. Ti ricordi l'altro giorno come stavo uscendo con l'MB più 5? Io pensavo che era la radio. Ma che cazzo la radio? Il microfono era? Ah, hanno imbatticciato. Si vuole la capsula originale. Così come li vendono bisogna lasciare i microfoni. Capito? Io non ho problemi di radio, non ho problemi di voce. Loro li modificano perché escono male qui e là. Il microfono qua, nuovo, originale, guarda quanto esce bene. Pulito, bello, non fischia, non fa, non ronza, nulla. Guido tutta frusci, tutta inneschi. Ma attenati, domani te l'ho detto, vado e mi prendo un altro MB più 5. Perché più 4 non ne ha, se no mi avrei preso un altro MB più 4. C'è un MB più 5. Me lo prendo e ne tolgo anche l'altro al Midland, metto quello nuovo e quello lì lo metto da qualche altra parte, non lo so, se no te lo pongo dentro l'armadio. Caffa, non te lo cudi da rubacone, se no faccio la figlia a Miro. Se no passi sotto e te lo cudo a capo. Vai Antonè, Sì, è vero, già la vetta. Vabbè, io il microfono degli MP4 della fatto più che altro con la mia modulazione, quindi sono sempre bene la verità, eh. Ricordate la capsula, quando li ho venduti sono sempre andati bene, nessuno si è mai lamentato la verità. Quindi sono andato bene, sia coso, io li ho venduto, anzi ho venduto quattro i microfoni la verità, tutti e quattro sono andati bene. Perché non ho comprato nessun altro? Perché l'ultima volta mi voleva in pratica inculare cazzo con le MP5, poi è stato dato da una persona, poi dall'altro, cazzo l'apparato addirittura di meno, te lo dico di qua. L'altro giorno non ho comprato più niente la Fusaro, di quel tipo di microfoni, già lo sai anche tu. Sì, ma me l'ha spiegato Antonello, può darsi che era qualche partita è andata male, questo me l'ha aperto, me l'ha controllato, tutto, mi ha regalato anche la batteria, me l'ha dato già con la batteria pronta, figurati tu, capito? Allora, tanto lei, quando li vendete, apriteli, controllateli, perché è capitato che ce n'è qualcuno che è messo male, dice me l'hanno già detto, ok, allora controllateli, questo è perfetto, nuovo, anche l'altro, il MBP5, l'ha aperto davanti a me, ed è nuovo, perfetto, e domani vale me lo compro, li prendi Antu. Vabbè, io ho preso, volevo chiedere un MP5, poi l'esterno è brutto da vedere, tutto ammaccato, capito? Allora ho detto a Mazza, io così ho detto, di conforto non posso prendermelo a casa, e ma dice a casa tua, dice, chi vuoi che ci venga, no? Io ho detto, scusa, io ho detto, microfono, la verità è che ho venuto tre di questi qua, sono venuti a casa, come hanno sentito, non ho neanche modificato niente, ho detto, ne ho venuto tre, quindi ho detto, a un certo punto ho detto, l'estetica, serve, finché serve a me, gli ho detto un discorso diverso, ma a me la verità è che non mi va bene, ho detto, le bolle così, gli ho detto, no. E tu fa la cosa, dammi dietro 10 euro, e tu 10 euro il resto, poi dopodiché ti prendo le mie più 4, dice vabbè, pigliati quello, mi ha detto. E infatti va bene, non ho mai toccato la verità. Era perfetto. Adesso vediamo un po' se la questione migliora di quelli dei P5 che non sono difettosi in quel tipo di difetto, me lo posso anche prendere, non mi costa niente. Il problema è assolutamente estetico, perché c'è questa specie di bolla tra il microfono e il, cioè tra il pomello del microfono e più che altro e il tuono, che era brutto, capito, da vedersi. Discorso è come dire, cioè, te lo ricordi quello che ha comprato quel ragazzino, poi da quel ragazzino poi è passato un altro, l'ha pagato la metà, cioè te lo ricordi anche tu. Sì, io me lo ricordo, io non ti preoccupare, già lo so, però quello era il coso, come si chiama, il piano, diciamo, dai, quello messo così, va bene. K del Roggero, aspetta un attimino, allora adesso ce l'ho a 5, adesso ce l'ho a 5, adesso lo metto a 6, ecco qua, eccolo qua, adesso è leggermente più alto della metà. Cos'è, troppo forte o troppo metallica? Oh, va bene Antone. Pompa. Qui va bene la verità, Va bene, no? Te lo sto dicendo. Va bene sì. Questo è il Michigin, vedi come lo abbasso, vedi? Ora, 1, 2, 3, 4. Proviamo a aumentare ancora. Guarda. A vedere se fruscia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eccolo qua, così è leggermente più alto della metà, però lo mettiamo così, lo mettiamo a 5, eccolo qua, e lo lasciamo così, ne cosa vuoi di più, non va bene. Quelle cagate che fanno, ma io vedo che fanno. modificarlo e fare tutte quelle cagate? Perché Antonio hanno problemi di modulazione, io grazie a Dio non ne ho, capito? Perché guarda, se così a metà il microfono, così te lo porto, guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, guarda, così è a 8 addirittura, guarda, sta pompando a 8, a 9, to, a 10, ma e cosa vuoi da un microfono così? To? Ti va di sotto, sopra i cuffi, lo metti così a 5, è più che soddisfacente, no? Sì, ma vabbè, io radio non ne ho per quello lì. Ma sono convinto che ci rubiate in occhi, con una radio buona funziona bene. Non ne ho problemi, mi. È certo che funziona bene. Considerando il fatto che io sto usando una radio del 1970, nuova di pacca da vetrina, un Inuit CB294 base, 23 canali. Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi? Ma lascia perdere, dai. No, non ce n'è di problemi che uno possa dire a queste radio. E così sono tutte le altre. Qualsiasi radio io collego è funzionante al 100%, ho capito tutto qua. Avanti Antonio. No, già, stai scendo veramente bene, la verità. Sei perfetto, non ti posso dire niente. Quindi, l'unico Antonio adesso si deve un pochettino a programmare le cose, un bel apparecchio, un'antenna, uno scende così, non so, un bel, ti posso dire, un termine 9, un bel linearetto, come si deve, no? Forse un boh. Vabbè, Saturno eccolo, l'ha già avuto, quindi è da escludere. A un certo punto, non lo so. Tanto, prenditi un 140, che ne hai fatto 13, guarda, la verità, per il momento. Tieni 6 anni, quello che è, dopodiché ti pigli un bel... guardi banda, ti banda, quello che ci sono, su internet, dipende da te. Il problema è programmarlo, tutto lì. Il problema è che non faccio di là, se no già me l'abbia comparato. E vabbè, un cavo già lo trovi minimo di 300 euro mi adesso, cioè 50 euro trovi quanto ne vuoi, 200 euro, dipende da te, il discorso è quello lì. Non so che soldi non ne hai, a un certo punto, ti capisco, non è che non ti capisco. Però se vuoi avere qualcosa in più, il discorso è quello lì. E sei medio, più che altro, e vai bene, capito? Per 4-5 anni, come è capitato anche a me, Claudio mi ha conosciuto meno di te, la verità, guarda, come soldi. Io sai Claudio cosa gli ho portato? E me ne vergogno anche, la verità. Un video di Sartore, un paio di cassetti porno e gli ho portato 1,5 milioni, se mi sbaglio. Per quanto mi ricordo io, figurati tu, col cavo, ti parlo del 680, figurati tu. Certo che non potevano essere normali le videocassette, no? Di qualche film. Sta succedendo, gli ho portato le videocassette, il video di Sartore e la Philips, la verità, perché questo non lo dico mai, ma ti sto dicendo, se avessi fatto se mi sarei vergognato, la verità, una cosa, comunque sia, allora valeva, il discorso è quello, vero o no Claudio? Ci si arrangia, no, tra amici, il discorso è quello. Ma certo che sì, infatti se ti ricordi ti ho detto cosa quando l'hai venduto, capito? Perché avevamo fatto proprio, te l'avevo dato a titolo amicizia, ero contentissimo, l'hai tenuto un sacco di anni, poi ci sei soffatto e l'hai dato, però tanto no, non c'era problema. Io quando ho le radio le do a posto e le do soprattutto garantite. E non mi tiro indietro, nel modo più assoluto. Io ne ho venduto anche uno da poco, che è il 440, la prima cosa che ho detto al proprietario, qualsiasi problema hai, io sono qua, non c'è problema. capito? Grazie a Dio ci sentiamo, la radio sta andando bene, non ha, fino adesso non ha problemi, non ha problemi, però bisogna rispondere delle proprie azioni, perché quando si vende una cosa uno deve essere responsabile chi ha venduto, non se ne deve lavare le mani, perché siamo buoni tutti così. Io vendo migliori di Naimi e ne ha fatto le balle, no, non funziona così, perché io sono la radio, se do la radio ad un amico, soprattutto che ci tengo, ad una persona di Sassari, è chiaro che devo essere presente, se c'è un problema, se posso intervenire intervengo, se non posso intervenire cerco di dare la mano, non è che lo devo mollare uscire, capito? Beh certo, più là adesso, pure io, sono le mie cose purtroppo, più là me ne voglio pigliare una. Tanto qua su già c'è lo spazio, una radio buona più là, e vediamo se schirreggia con questo impianto. È certo che funziona con l'impianto, il discorso è quello. Cosa vuoi dire, Riccardo? Mettiti, cosa ti posso dire? Fai finta che c'hai 100 euro al mese, cioè, no 100 euro al mese, fai finta che c'hai 50 euro al mese di una rete da parte. Che altro? Mettiti la parte 300 euro per dire, e ti prendi un bel comodo. Vabbè, io ti sto dicendo 50 euro ogni mese, fino a 300, che poi costa la metà di meno, ma comunque sia, mettiti da parte. Vabbè, no, una volta che c'è questo soldi, dici qua, guarda, c'ho questi soldi disponibili, cosa posso prendere? Beh, questa cifra lui ti dirà. Mi, Anto, guarda che c'è questa panica qua, per dire, anche un tribana, quello che è, ti sono di una foto nuda, anche se non è che basta sia un apparato che esce bene, come si deve. Il discorso è quello. Quanto si può girare, Crago, completo di microfono, da tavolo, con MC60? L'M60 non lo trovi meno di 70-80 euro, tu. 70 euro lo puoi trovare, ma meno no, meno non lo trovi, il microfono che vale un sacco di soldi, costa 160 euro nuovo, e lo stanno facendo ancora, perché molte radio della Kenwood che sono tornate alla ribalta, usano, molti radioamatori usano quel microfono, quindi è molto cercato, capito? No, Antonio, è un 140, la partenza base di un 140 in ordine dalle 230, 250 euro massimo, 270, non di più, capito? Ce n'è anche magari un po' vecchiotti, però funzionanti, anche a 200 euro. Bisogna trovarlo. Io ne ho due, sono spettacolari, da vetrina, uno mi lo sto mandando a dare una lineatina, perché ci hanno toccato le resistenze variabili, quindi c'è qualche spostamento, un SSB leggermente, eccetera, eccetera. Lo sto andando a far allineare e poi vediamo se lo vendo o se me lo tengo di scorta, diciamo. Ma nuovo, veramente nuovo, esternamente, frontalino, non graffiato, non consumati di slider, nuovo. E lo sto mandando a dare un allineamento totale, una revisione totale, in modo che sono sicuro che quando lo do a posto, non revisionato, perché non c'è niente da revisionare, 140, funziona perfettamente, però ha bisogno di un allineamento a strumento, e lo sto mandando. Adesso dopo Capodanno parte immediatamente il continente da un tecnico a far allineare, capito tu? Quindi già si trovano quelle radio, bisogna avere gli agganci giusti, io ne ho quanti ne vuoi, te l'ho già detto, fai qualche sacrificio, mettiti da parte a 50 euro al mese, li metti dentro una busta, capito? quando ce li hai pronti a me me lo dici, io te lo procuro una bella radio intorno, non ne ho problemi, te l'ho già detto, non mi tiro indietro, e se te la procuro io stai tranquillo che funziona, perché io ne ho venduto tante, ma tante, tante, non ho mai avuto una lamentela, mai e poi mai. Appena che ne esco un pochettino dai pasticci, perché ho tante cose per la testa, lo faccio, mi metto i soldi da parte, me la prendo una bella radio, cioè una radio che fa da forte, come lo so, come la voglio io, questa sì funziona, ma non è che sia chissà cosa, no? Tu quando ti prendi un 140 è un baracchino a sintonia continua, facilissimo da usare, c'ha un doppio WFO dei canali come il baracchino, poi vuoi andare in sintonia continua, fai sintonia continua, non hai problemi, hai 100 watt a disposizione, ti rampi tutto francareci, lineari, controlineari, non hai problemi di nulla, di niente, capito? È una radio che ti dà tantissime soddisfazioni. È un baracchino a sintonia continua, un HF a sintonia continua, chiamatelo non è baracchino, perché è molto ma molto semplice, ma molto molto efficace, alla grande. Inizi col microfono normale che va bene lo stesso, tranquillo perché spinge, c'è il processore, una volta attacchi il processore e regoli il mic gain come te lo regolo io, esci alla grande. E poi piano piano, una volta che hai fatto la radio, a 10 euro ti rimetti da parte e ti compri un bel MC60. E sei arrivato a tu, sei arrivato. Capo. Perché... Oh vabbè, cosa faccio? Qualche amplificatore tengo sempre, ma per i baracchini. Con ghiso bomba, con ghiso anda forte, ma forte però. Devo pensare, cioè devo mettermi un po' a posto questi casini che ho. Ripeto, poi lo faccio, alla fine faccio quel passo, me ne prendo una come Dio comanda, me ne voglio prendere. E te lo sto dicendo, un 140 per te. Va benissimo, fatto vedere da uno che ha molta ma molta esperienza su quelle radio, penso non ci sia nessuno a Sassari, se ne possono vantare, ma io è dall'86 che uso quelle radio, le ho provate tutte, le ho avute tutte, per la 27 sono le migliori in assoluto, non ce n'è per nessuno, capito? Quindi te lo dice uno che ha avuto molta molta esperienza e ha molta esperienza in quelle radio, perché io ce li ho e non le darò mai, posso cambiare, venderne una, prenderne un'altra, però sempre quelle sono, non c'è niente da fare, assolutamente, capito? E vanno molto molto bene, molto molto bene, certo, lineare ti ritieni, ti metti un baracchino, se vuoi usare quel baracchino, io non sto usando il baracchino con 5 watt adesso, non è che non mi senti, non mi senti lo stesso. Se però voglio andare più professionale mi giro dall'altra parte e c'ho il 140 o il 430, quindi vado con quelle, non è un problema, tutto qua. Va bene, avanti Antonè. Infatti, comunque sia, Anto, secondo me ti conviene prenderti uno e unico a un certo punto, non per stare con questo lineare, apparati, eccetera, eccetera, 25 apparati, e poi 27, farli fuori, prenderti uno unico e va a fanculo a un certo punto, come ho fatto io. Quindi figurati tu, vabbè, poi io piano piano ho risparmiato eccetera eccetera eccetera, mi sono preso gli apparati, gli antenne eccetera, quello che ho oggi, quello che ho oggi perlomeno, la verità, quello che non abbiamo messo accendiato, la verità mi dispiace anche tanto, è un alimentatore che mi ha dato Claudio, dopo 20 anni stavano cominciando la umidi più che altro, quindi adesso devo sistemarlo piano piano e si vedrà un pochettino, se no mi piace tutto, la verità. a un certo punto mi tocca usare, cioè abbassarmi a usare degli alimentatori quelli cinesi, per poter pilotare gli apparati. Non è più come prima, quei alimentatori grossi che pesavano di 5-6 kg, cosa del genere, come quello che ho conosciuto io, ma i tempi sono cambiati. Guarda che io ce l'ho e funziona benissimo, mio Antone. Adesso ho abbassato un po' la potenza, non sta andando, non funziona bene, non me lo porta bene l'amplificatore, non c'è nessun problema. Sì, ma io sto usando un alimentatore di quel modello vecchio, Alpha Electronic, con trasformatore da 25 ampere, figurati, adesso mi ha fatto difetto che se io accendo, hai capito, fa non dire la carnata, quindi c'è una specie di corto, tutto lì. Se invece installo questi cavetti qua nell'altro apparato, nell'altro alimentatore, cosa leggere, quel problema non ce l'ho. Il discorso è quello lì, siccome c'è l'alimentatore che è in corto ed è molto molto strano, perché non l'ho quasi mai usato, è una cosa rara, vedete, rara che è successa. Quindi adesso a un certo punto, la prossima settimana lo apro, mi cambio i punti di riordine e vediamo se va bene. Se non va bene, prendo il primo cassonetto, ci butto, l'alimentatore è tutto, a un certo punto se la tocca in culo. Se non riesci più a aggiustarlo, qua dai cinesi, da cinciulli te ne pigli uno, 20 euro, 22 euro, quanto è, e te lo compri nuovo. E infatti faccio quello, vado con mio cognato, quando la cinciulli, lì di fate a cosa? Dove c'è città mercato, mi prendo un... Ho arrivato 50 ampere e sono a posto qua. Calcio quindi di non premere le balle, la verità. Si ricca. Così me lo piloto gli altri apparati, il discorso è quello lì. L'ha fatto mi ieri avanti ieri, la verità, perché sennò mi facevo un tanto e facevo uno giro strano, ma gli ho detto, ma io già mi stavo pigliando per il culo a baracchino. Alla pena lo chiedevo, vabbè, ci sentiamo un altro giorno. E invece ieri mi ha fatto proprio questa vibrazione nella carrozzeria dell'alimentatore, capito? Perché io ho un'alfa elettronica autocostruito con due strumenti, che c'è il voltometro e l'amperometro. E claro, lo sa, me l'ha dato lui, quindi a un certo punto. E c'ha più di 20 anni questo alimentatore qui. Il discorso è quello, è durato anche un bel me. C'è i condensatori vecchi, ma vecchi veramente, quelli grossi. Quindi a un certo punto devo per forza modificarlo, ha capito? Completa con l'alimentatore suo della Kenwood, colonnina, MC MC60, radio, capito? Poi hai visto tutti i microfoni in fila, quanti ce n'è? Vale, ti sto dicendo, dove sto modulando io adesso, col baracchino. No, non riesco a capire una cosa, io per esempio, se mi devo comprare quello che mi hai fatto vedere, io prendendomi questo tipo di radio, la voce da dove c'è? Devo prendermi la colonnina pure. No, c'è un altoparlante suo sopra il coperchio, cosa c'è la colonnina? La colonnina è a parte, l'altoparlante esterno è a parte. Ah, non lo sapevo. È un baracchino dove c'era la sua altoparlante nel coperchio, quello al coperchio sopra c'è l'altoparlante. Poi se devi comprare la colonnina, devi comprare la colonnina e metterla a fianco, sempre della stessa altezza, stesso colore, tutta la linea ti fai piano piano. Capito? E va bene, e va benissimo, vero Lucarie? Questo è l'innovitti, non sta andando bene. Lucarie. Sei calamasciato. La bella punendo in moto, avanti Antu. Scappa, no, non capivo. Perché vedevo sempre con l'autoparlante, vedevo io. Non capivo mai il perché c'era sempre con l'autoparlante. Io pensavo che ce lo dovevi attaccare per forza, invece no, c'è una cosa diversa, così ce l'ha incorporato. E certo, c'è il suo, il tappo normale con l'autoparlante suo, no? La radio normale. Poi se vuoi mettere l'autoparlante esterno, la colonnina esterna, come fanno tutti, anche al baracchino, no? Metti la colonnina esterna, però questa colonnina è di linea, è della stessa altezza, dello stesso colore, della stessa lunghezza della radio, affiancata alla radio praticamente c'è la colonnina, capito? Adesso ti mando la foto proprio della radio del 140 con la colonnina sua agganciata, capito? Scappa, perché non lo so, è come questo che sto usando io adesso, che c'è la sua, così è. Che diversa. No, vabbè, all'incirca se ce l'ha incorporata, scusami, sarà diversa, sarà di più, guaro, però alla fine il sistema è quello. È un po' più grande la verità, sì, quasi, ma comunque, sento, è quello che sei dicendo tu, più che altro, no? C'è l'apparato con la colonnina esterna, cioè sopra l'apparato, dopodiché puoi mettere addirittura un'altra colonnina esterna, metterla dall'altra parte, cosa è quella. Dopodiché puoi installare un sacco di altre cose, eccetera, eccetera. Ma comunque sia, quell'apparato lì va alimentato con la VCVOS, un alimentatore che ci abbia almeno 20-30 ampere, il discorso è quello lì, tutto lì, non devi fare altro, però è un bel apparecchio, la verità, se te lo prendi veramente è un bel apparecchio, hai fatto 13, io l'ho avuto, la verità, perché io non l'ho, di qui, la verità, non potevo usarla perché c'è problemi di cosa, di scariche elettriche, eccetera, eccetera. Però tu dove c'è il centro storico, c'è da qui da un'opera di manco un sono là, resuscitato. Quindi se ti capita prenditela, un apparato del genere, te lo dico io, prenditelo. È veloce però. Ti ho mandato Antu il coperchio del 140, vedi? Quello piccolo, quello a righe piccole, quello è la colonnina altoparlante della radio normale. Poi ti ho mandato la radio con affiancata la sua colonnina, sempre della Kenwood, vedi com'è? È della stessa altezza, della stessa lunghezza della radio, di linea, si chiamano colonnine di linea, altoparlanti di linea. Di linea che è il PS430, ok? E quello è l'autoparlante esterno del 140, del C80, del 430, del 440. Poi c'è l'SP23, ok, che è quella del 450, che però rimane un po' più scura, più nera. Questa è tutta grigia ed è delle quattro radio principali, 440, 430, 680, 140. Quella è la colonnina di quella serie di radio lì. Capito? Ed è affiancata alla radio, fa linea. Poi metti l'alimentatore, se vuoi ti mando anche l'alimentatore. L'alimentatore è sempre di linea, PS50, stessa lunghezza della radio.